andando su Zero Ghetto Zero Queen S D, profondo su Zero Money Zero Dean S D, profondo su Zero Ghetto Zero Queen S D, profondo su Zero Money Zero Dean D. Zero America per chi mi ostacola, questa non è una predica ma un dato di fatto. Zero gang all'atto, zero grattacieli e metro al primo impatto. Ed anche se mi sbatto, non sarò né miliardario fossi matto. Zero ghetto, zero reietto, anche se il mio rione non è certo benedetto. Sarò schietto, voglio la fama che mi spetto. Non cerco vita da supereroe da fumetto. Ogni giorno giro nel quartiere, giornate intere, tre cazzate storie vere. C'è chi si perde nel bere, chi fuma droghe leggere, chi si inietta nelle arterie robe serie. Dal sud profondo, nel sud m'affondo, notte e giorno giro nel mio mondo. Chi tocca il fondo, spesso rimane vagabondo tra le rime che compongo. Prendo quel che devo per la rima che diffondo. Profondo su Zero Ghetto Zero Queen. Profondo su Zero Money Zero Dean D. Profondo su Zero Ghetto Zero Queen S. Profondo su Zero Money Zero Dean D. Parte dall'asfalto in cui vivo, ogni storia che scrivo, lì dove la partenza equivale all'arrivo. Altro che storie da divo, prendi batoste e metti in archivio. Vite al bivio, vite da pubblico dominio. Giornate intere, per sé correndo dietro ad un pallone, cercando la via retta in ogni direzione. Altro che prati verdi ed aquilone, solo il cemento è testimone della mia creazione. Profondo su Zero Ghetto Zero Queen S.D. Profondo su Zero Money Zero Dean D. Profondo su Zero Ghetto Zero Queen S.D. Profondo su Zero Money Zero Dean D. Profondo su Zero Ghetto Zero Queen S.D. Profondo su Zero Money Zero Dean D. Profondo su Zero Ghetto Zero Queen S.D. Profondo su Zero Money Zero Dean D. S.D. Profondo su Zero Ghetto Zero Queen S.D. Profondo su Zero Money Zero Dean D. Profondo su Zero Ghetto Zero Queen S.D. Profondo su Zero Money Zero Dean D.